un'altra Europa. Eccoci qua, buon sabato da Federico Taddia, 9 minuti dopo le 12, siamo in diretta, Radio 24, 9 maggio, festa dell'Europa. Abbiamo scelto di dedicare l'intera puntata all'Europa, che è il tema del nostro programma. Noi il sabato cerchiamo altri punti di vista, altre storie, altre opportunità e possibilità, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, euronetplus.eu, il portale che come sempre vi ricordo di visitare, radio24.it, la porta per entrarci. Tante notizie, tante inchieste, tante voci diverse per raccontare la stessa Europa. Sarà un giro d'Italia per raccontare le tante feste d'Europa e ovviamente si parte da Expo. So cold, you have love on your side. Born to them with food in their bellies, car for them to drive. People sleeping on the concrete, still smile behind the signs. Go now, be happy and be free. Un'emozionante alza bandiera. Alle 10.30 ha inaugurato il padiglione dell'Unione Europea, ma per raccontare quello che è successo e soprattutto quello che sta succedendo c'è con noi Gigi Donelli. Ciao Gigi, buon sabato. Ciao Federico, buon sabato, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, una mattinata intensa lì ad Expo, una mattinata con l'Europa protagonista. Assolutamente, infatti in questo istante, non so se lo sentite nel sottofondo, siamo nel pieno del dibattito, dei dialogues, dunque i dialoghi con l'Europa, protagonista un auditorium Expo, così ne scopriamo tra l'altro un altro pezzo di questo enorme spazio, diciamo un auditorio gremito, con da essenzialmente studenti e anche di visitatori appunto, che ascoltano i temi che vengono lanciati dal pubblico, dai social network e diciamo appunto dai partecipanti ai due protagonisti di questa mattinata, che sono, come appunto avete anticipato, il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz e l'altro rappresentante della politica estera e di sicurezza comune europea Federica Mogherini. E Gigi, qual è il clima? Si riesce ad andare al di là della formalità? Cioè, si è instaurato un vero dialogo? Ma direi decisamente sì, anche perché essendo un'aula piena di ragazzi la formalità si è fatta presto da parte, la formalità per carità è stata rispettata nell'alza bandiera, negli inni eccetera, dopodiché sono arrivate le domande proprio poco fa, direi che si è entrato nel vivo della questione. Una ragazza che si è alzata dicendo: siccome sono di Palermo, questo è stato il tuo esordio, allora io sono molto preoccupata dalla questione dell'immigrazione. Ecco, questa è stata un po' l'occasione per innescare un dialogo reale. Lì in particolare è stata Federica Mogherini che ha risposto anticipando insomma quello che abbiamo visto anche oggi, alcune anticipazioni giornalistiche di mercoledì come giornata importantissima, il prossimo mercoledì, dove l'Europa farà appunto i conti con le nuove decisioni in materia di immigrazione, in particolare di distribuzione dei rifugiati, un tema che come sappiamo è caldissimo. Un agricoltore e un ricercatore sono i due simboli scelti dall'Unione Europea per il loro per il suo padiglione. Hai avuto modo di visitarlo già o non ancora questo spazio? No, non ancora, perché in realtà il padiglione europeo verrà aperto subito dopo. Ah, okay. Quindi fa parte della mattinata, diciamo che adesso è dialogo che va avanti per ancora circa una mezz'ora. Poi dopo Schulz e Mogherini si spostano, non molto perché stiamo parlando di circa 150 metri, lungo il Cardo, e lì appunto l'apertura ufficiale del padiglione europeo, che peraltro è davvero a pochi passi dal padiglione Italia e dall'albero della vita. Insomma, una giornata importante al di là delle cerimonie, un appuntamento 9 maggio che è Expo, che l'Unione Europea ha scelto di vivere con questa importante giornata, e sono contento anche di quello che ci riporti Gigi, insomma, di questa informalità. Mille giovani sono tanti, sono un sacco di energia, di creatività e di poca retorica anche, nel senso che nessuno meglio dei giovani sa andare al di là della retorica, credo. Sì, devo dire anche che penso che da questo punto di vista Federica Mogherini faccia parte di quelle persone appunto che sono capaci anche di affrontare un reale dibattito. Non è da tutti, e lei sta, come dire, rispondendo rapidamente, naturalmente un auditorio italiano che si sente anche più diciamo favorito dall'uso della nostra lingua. Schulz parla alternando, come lui fa di solito, il tedesco, l'inglese e l'italiano, perché comunque diciamo che lo parla quasi, di sicuro lo capisce perfettamente, per cui il dialogo è reale e fa effettivamente molto piacere vedere una sala gremita di ragazzi che ascoltano e rispondono. Questa è l'Europa che raccontiamo anche noi a Radio 24. Gigi, immagino che sarai lì e durante la giornata farai altri aggiornamenti durante i GR, quindi buona festa dell'Europa anche a te, buon lavoro. Grazie, buona festa dell'Europa a tutti voi. europa.eu/expo2015.it è il sito per avere tutte le informazioni sulle padiglione dell'Unione Europea. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando poi ancora qua con la festa dell'Europa. Europost-it. European Youth Card Awards. Ti piacerebbe vincere un weekend all inclusive per due persone in Grecia o a Cipro? Se stai svolgendo il servizio volontario europeo, l'Associazione della Carta Giovani Europea ha dato il via a un concorso dedicato proprio a te. L'associazione invita tutti i volontari SVE che abbiano una carta giovani a realizzare un video di 60 secondi per raccontare la loro esperienza di volontariato e i suoi risultati e a condividerlo sul sito ufficiale del concorso. L'autore del video che otterrà più like da parte degli utenti si aggiudicherà il viaggio premio. Ma attenzione, c'è tempo solo fino al 15 maggio. Per saperne di più andate su eyca.org/evs-award. L'altra Europa. È la porta d'Europa, è là la regione Sicilia ha scelto di celebrare la festa dell'Europa. Sto parlando di Lampedusa il 9-10 maggio, oggi e domani, un ricchissimo programma dedicato all'Europa, tante teste pensanti, tante belle esperienze, tante testimonianze importanti, anche testimonianze artistiche. E poi la scuola, che è luogo privilegiato per fare cultura europea. Di tutto questo ne parliamo con il vicepresidente della regione Sicilia, Mariella Lobello. Buongiorno Lobello, buona festa dell'Europa. Buongiorno a voi. Allora, un appuntamento importante anche perché in questi due giorni viene presentato il progetto Talenti d'Europa. Di cosa si tratta? Talenti d'Europa è un'occasione che viene data agli studenti siciliani delle scuole superiori intanto di cimentarsi parlando d'Europa e non i siciliani o gli italiani che guardano all'Europa, ma parliamo ai giovani europei, questi giovani europei che gareggeranno tra di loro, lo stanno facendo in ogni provincia con diverse corsie, i licei avranno la loro corsia, gli alberghieri lo stesso, i musicali la stessa cosa, quelli tecnici che si cimenteranno con delle nuove app, insomma un concorso di idee che guarda ad un'Europa che voglia davvero mettere in evidenza i talenti di questi giovani che certamente sono siciliani, sono italiani, ma che sono proprio perché questa Europa deve farsi sicuramente più Europa di popoli, sono europei. Allora c'è un sito internet per tutte le informazioni che è talentieuropa.it, appunto questo progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo, promosso dalla Regione Sicilia. L'idea è proprio quella di chiedere ai ragazzi attraverso i loro strumenti privilegiati di raccontare idee, stimoli, protagonismi di questa nuova Europa. Vicepresidente, che significato ha essere lì proprio oggi a Lampedusa, l'Europa e Lampedusa, questo legame strettissimo, fortissimo, anche doloroso a volte? Lo diceva lei all'inizio, l'Europa ha una sua porta naturale che si chiama Lampedusa che è stata da sempre, insomma, questa roccia in mezzo al mare, una porta d'Europa quasi naturale, che ha nella sua vocazione turistica sempre avuto il suo futuro, ma che ha oggi anche nell'accoglienza e la sua missione. Quindi vogliamo parlare proprio da Lampedusa per rilanciare l'economia di questa isola, nello stesso tempo non dimenticando e quindi volendo dire all'Europa che ciò che sta accadendo nel mare Mediterraneo è un problema che dobbiamo tutti insieme affrontare. I lampedusani, gli abitanti dell'isola, sono arrabbiati con l'Europa? Sono molto arrabbiati con l'Europa ed hanno ragione, perché non si può pensare l'accoglienza è una missione, è un dovere, è una vocazione che i lampedusani hanno sempre avuto, ma certamente l'indifferenza europea li fa molto arrabbiare. Questa è un'isola che deve, proprio per ciò che è stata capace di fare, deve essere attenzionata dall'Europa, ed è questa un'indifferenza che offende e danneggia i lampedusani. Noi vogliamo che da questi due giorni, attraverso questo tendere la mano ad un'Europa che deve più avvicinarsi a Lampedusa e non invece guardare semplicemente al nord, ma deve guardare al Mediterraneo, deve guardare a quest'isola davvero come un avamposto che è di democrazia, ma che economicamente è anche un'isola che deve avere la capacità e tutto ciò che serve per fare della sua vocazione turistica anche continua ad essere la base della sua economia. Grazie davvero a Lobello, vicepresidente della Regione Sicilia. Vi ricordo ancora talentieuropa.it, invece è il sito per questo stimolante progetto destinato alle scuole superiori. Grazie, buona festa. Grazie a voi. Buon grazie. Sabato. Buona Europa. Europost-it. L'Unione Europea tra passato e presente a Venezia. Dal 5 al 19 maggio l'Europa diventa protagonista anche a Venezia con l'Unione Europea tra passato e presente. Una grande manifestazione per celebrare la festa dell'Europa. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra Comune di Venezia, Europe Direct, Consiglio d'Europa e rappresentanza in Italia, prevede un programma ricco di iniziative, mostre, proiezioni, spettacoli e incontri per promuovere una cittadinanza europea più consapevole. Spettacoli per bambini come Una favola d'Europa in programma al Centro Plip di Mestre e attività dedicate a ragazzi e adulti come il convegno sull'Erasmus L'Europa per i giovani vi aspettano a Venezia fino al 19 maggio. Per saperne di più, visitate il sito del comune comune.venezia.it. Questi sono i nostri Europost-it, tutto ciò lo potete ritrovare e riascoltare sul nostro sito radio24.it nella pagina dell'Altra Europa, da lì potete scaricare il podcast, da lì potete leggere e ritrovare anche i nostri materiali e contenuti extra. Adesso un ospite che siamo ben felici di avere di nuovo qui all'Altra Europa. Insomma, l'abbiamo conosciuto quando non aveva i piedi per terra, lo abbiamo conosciuto adesso con i piedi per terra, sto parlando di Luca Parmitano, l'astronauta che ha messo l'Europa al centro della sua missione, grazie all'Europa, l'ha detto tante volte, lui ha potuto diventare astronauta e questo amore per l'Europa lo rivive in tantissime occasioni e ogni volta che ha la possibilità di farlo. Lo abbiamo intervistato una mezz'oretta fa, non poteva essere in diretta, però ci teneva ad essere qua con noi in questa giornata di festa dell'Europa. Questo è quello che ci ha detto. L'altra Europa. Luca, festa dell'Europa, cosa rappresenta per te questa giornata? Questa è una giornata di festa, davvero, perché l'Europa deve portarci il sorriso. Quando pensiamo all'Europa noi dobbiamo sentirci sereni, dobbiamo sentirci pronti a partire, pronti a metterci in gioco. Direi che questo concetto può essere oggi espresso con un invito ai giovani di approfittare dell'Europa, approfittare delle opportunità che l'Europa ci offre. E soprattutto a me piace rivolgermi agli studenti e dir loro di farsi parte attiva dell'Europa viaggiando, andando a studiare all'estero, approfittando di programmi come Erasmus. Adesso c'è la generazione Erasmus che ha la guida dell'Europa e quindi in questo senso oggi è una giornata anche per loro. È questo un po' il pensare europeo che vuoi consigliare ai ragazzi, nel senso che l'Europa, al di là del concetto, al di là dell'idea, c'è poi un'Europa fatta di possibilità, di opportunità, di cose concrete? Ma noi dobbiamo assolutamente comprendere questo, cioè l'Europa non deve essere un concetto, non deve essere un'idea, parte da un'idea per farsi un fatto concreto, e fatto concreto vuol dire partecipazione, vuol dire farne parte, lo ripeto attivamente, questo lo diciamo non solo come ambasciatore del semestre di presidenza, ma anche come astronauta, come studente, come cittadino europeo. Approfittare delle opportunità che l'Europa ci offre è un nostro diritto, ma è quasi un nostro dovere per essere veramente cittadini europei, per fare questo passo evolutivo verso una cultura europea che sia nostra, che sia di partecipazione, di condivisione, di contributo anche, perché noi italiani possiamo dare un contributo fortissimo partendo dai più giovani e arrivando anche a quelli della mia età e anche più grandi. Luca, ti porto oltre l'Europa, pensando al pianeta. Appena aperto questa mostra a Milano, il mio pianeta dallo spazio, fragilità e bellezza. Com'è il pianeta visto da lassù? In cosa è bello e in cosa è fragile? Beh, è bello in tutto. Il nostro pianeta è di una bellezza perfetta, nella sua mutevole perfezione, è da ammirare e da apprezzare, e la sua fragilità è nel suo equilibrio. La Terra è un equilibrio fragilissimo e noi siamo un impatto estremamente pesante in questo equilibrio, e il rischio è di prendere tutto per scontato, che è una purtroppo uno dei difetti più grandi della natura umana, e di non riuscire ad apprezzare invece che quello che abbiamo di questa perfezione non è lì per sempre, non è e soprattutto non ci appartiene. Certo. È così la Terra, il nostro pianeta, è bellissima in ogni sua forma, dal giorno di pioggia al giorno di sole, dalla sabbia più calda dei paesi africani alla neve più fredda dei ghiacci delle montagne o dell'Antartide. Questo equilibrio così fragile deve essere rispettato. È il nostro ruolo di steward, di piloti di questa nave spaziale che è la Terra nel suo viaggio solitario nell'universo. Il nostro ruolo deve essere quello di rispetto, di manutenzione, di attenzione e di apprezzamento per la natura così straordinaria di questo pianeta così unico, che io ho visto da 400 km di distanza in tutta la sua bellezza e in tutta la sua unità e unicità. Luca, un'ultima domanda e ti riporto a riflettere sull'Europa. Un'accusa che fanno spesso l'Europa è quella di essere solo un'alleanza economica dove non esiste la solidarietà. Tu hai vissuto per mesi dentro la stazione orbitante, che comunque è una situazione a rischio, è una situazione anche piccola dal punto di vista dello spazio, dove devi vivere a contatto giorno e notte con i tuoi compagni. Qual è la tua idea di solidarietà? Beh, la solidarietà a bordo è una, diciamo, un piccolo riflesso di quello che la solidarietà dovrebbe essere in generale. Per me l'idea dovrebbe essere quello, ripeto la parola, di condivisione. La condivisione sia di tutto ciò che c'è di positivo, ma anche di quello che è negativo. È indubbio che l'Europa, come Unione Europea, ha delle realtà molto diverse. Ci sono paesi molto ricchi, ci sono paesi meno ricchi, ci sono paesi con problemi nel mondo dell'occupazione, nell'industria, e problemi che questi paesi, che questi problemi li risolvono con più facilità. Bene, condivisione vuol dire da parte di chi ha delle risorse molto forti, vuol dire cercare di condividere, farsi carico anche delle problematiche dei paesi che sono nel mezzo di una crisi e che cercano in tutti i modi di uscirne. Questo senso di condivisione diventa solidarietà nel momento in cui si fa con gioia, con passione, con l'idea che sia la cosa giusta da fare, perché arricchisce tutti, perché alla fine un'Europa più forte, un'Europa più unita, un'Europa più condivisa, più solidale, ci rende più forti nel resto del mondo e ci porta come idea, come concetto, come evoluzione di società a essere un esempio a livello mondiale, affinché nel resto del mondo ci possano guardare e dire: ecco, quella è la direzione in cui andare, quella solidarietà, quella condivisione è quella che arricchisce, perché ancora una volta, in un certo senso, ancora una volta condividere vuol dire moltiplicare le proprie risorse, moltiplicare quello che abbiamo e moltiplicare la forza e le risorse che ognuno può dare con il proprio contributo. Gioia e passione, questi gli ingredienti che scegliamo per la festa dell'Europa. Ciao Luca, buona Europa e grazie. Buona giornata a tutti e buona Europa a tutti. L'altra Europa. Sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, sempre la festa d'Europa che oggi celebriamo a nostro modo. Abbiamo aperto da Expo parlando di cibo, adesso continuiamo a parlare di cibo con, insomma, lo sapete, mi conoscete, mi piace andare a scovare storie particolari, mi piace anche quando queste storie diventano altro, quando aprono nuovi link, quando ci sono trasformazioni e cose così che si generano anche grazie all'altra Europa. Do il benvenuto a Michele Marmino, ciao Michele. Ciao Federico, ciao a tutti. Allora, Michele Marmino chi è? Michele Marmino l'abbiamo conosciuto in diverse puntate dell'Altra Europa negli anni scorsi, perché insomma è europeista convinto, uomo Erasmus, hai fatto e vissuto tante belle esperienze di cui sei stato anche portavoce. Mi hai mandato una mail in questi giorni dicendo che hai un po' cambiato vita, adesso sei a Luino dove hai aperto un ristorante, però il tuo amore per l'Europa continua e insomma e l'hai... Hai scelto di celebrarlo in questi giorni in un modo molto particolare. Quale? L'ho messa nel piatto, in pratica. Ho presentato l'Europa in tavola e ho creato, diciamo, ogni giorno degli appuntamenti gastronomici dedicati ai piatti tipici delle cucine europee. Mm-hmm. E l'ho proprio chiamato l'Europa in tavola. Insomma, quindi oggi l'orario è quello adatto. Mi piaceva aprire una parentesi, visto che il cibo è anche, insomma, tema gettonatissimo. Tema di Expo. E quale menù puoi proporci? È un menù da festa dell'Europa da consigliare? Sì, è un menù che parte da Malta con i pastizzi maltesi, per poi passare in Repubblica Ceca con lo stufato di mandorle e noci, per finire in Portogallo col melone al porto. Però anche i formaggi sono una delle caratteristiche europee. Ho dedicato la Blue Cheese Night giovedì, dove ho fatto incontrare il nostro gorgonzola con altri prodotti DOP come il Cabrales spagnolo, il Blue Stilton e il Roquefort. È stata una buona contaminazione? Sì, anche aromatica. Ascolta, davvero tu hai messo la cultura europea oggetto di tue tante esperienze di vita, quindi il cibo lo conoscevi, il cibo l'avrai incontrato mille volte nel tuo vivere l'Europa. Com'è, esatto. Com'è raccontare l'Europa adesso da un ristorante? È interessante, anche perché poi sono sul Lago Maggiore, quindi è pieno di turismo europeo, permette anche di confrontarsi proprio in questi giorni con i turisti dei vari paesi europei. Ho cercato anche di confrontarmi con alcune ricette e cerco durante l'anno di dare anche delle tematiche europee, anche perché la vocazione è sempre quella. Non mi sento fermo sul luogo. Ad esempio, ho fatto il weekend irlandese anche col supporto dell'ente del turismo irlandese. Ho cercato proprio di creare l'atmosfera che si presta anche col locale tradizionale, quindi cerco sempre di spaziare, di viaggiare, di far viaggiare anche i clienti e gli amici direttamente dal ristorante. Al Cantinone, il nome del ristorante, mi avevi promesso un dessert dedicato all'altra Europa. Sì, stasera sì. Faremo questa torta slovacca, la babovka, e sopra farò una dedica all'altra Europa. Fantastico, sarà il primo dolce radiofonico della storia. Grazie Michele per aver festeggiato con noi l'Europa. Ciao, buon pranzo, ciao ciao. Your stepmom thinks I should shave my face. Grandma's grandkids, grandkids, grandkids, next mate. I think Erasmus will change my life. Ho passato un anno a Siviglia, in Erasmus, è stata un'esperienza incredibile. C'è una narrativa, c'è un filo rosso che mi ha portato fino a qua, credo, e... Eccolo l'Erasmus che ritorna, eccolo l'Erasmus come colonna portante, colonna vitale di questa Europa. L'Erasmus che stiamo ascoltando in questo trailer è l'Erasmus narrato da Life in Motion, un documentario per raccontare la generazione Erasmus. È stato presentato ieri al Festival d'Europa di Firenze e con noi c'è Alessia Carlozzo, responsabile comunicazioni di ESN Italia e del progetto Life in Motion. Ciao Alessia. Ciao Federico e ciao a tutti. Allora ricordiamo Erasmus Student Network, l'associazione appunto che rappresenta, che raccoglie tantissimi Erasmus. Avete scelto di raccontarvi? Sì, diciamo che dopo tanti anni, per la precisione 20 anni compiuti nel 2014, avevamo pensato che era l'ora di raccontarci in una maniera diversa anche al grande pubblico, se così si può dire. E da questa idea iniziale è iniziato il viaggio che abbiamo raccontato con Life in Motion. E come tutti i viaggi era iniziato appunto per raccontare SN, in realtà abbiamo finito per raccontare delle storie unite, come dice appunto il trailer, da un unico grande filo, che è questo concetto di mobilità ed è questo concetto del viaggio che ti porta a scoprire, a vedere nuove terre e a vivere nuove esperienze. Alessia, ma di Erasmus si sa già tutto? Cioè tutto quello che c'era da dire è stato detto o comunque sono cambiate le generazioni e quindi cambia anche il modo di vivere, di percepire, di comunicare l'Erasmus? Io credo che di Erasmus in realtà non si sia ancora raccontato tutto, questo perché, come appunto hai appena detto tu, le generazioni in qualche modo cambiano, cambiano anche il modo in cui ci si approccia a questo progetto e a questa esperienza. Proprio ieri al festival ho conosciuto una ragazza che ha fatto l'Erasmus nel 2001 e capisci bene che farlo veramente tanti anni fa rispetto a farlo adesso significa viverlo in una maniera differente. Penso anche semplicemente all'impatto che oggi hanno i social network, mm-hmm, e a come in qualche modo si racconta la propria esperienza anche su dei canali differenti che magari appunto un 10-15 anni fa non c'erano più. E questo anche si percepisce da Life in Motion in qualche modo, da come raccontiamo e da come i ragazzi raccontano la loro esperienza di mobilità. E certo, insomma, è un'esperienza sicuramente, insomma, dico una banalità, ma più social, quindi è un po' meno esperienza individuale, ma diventa veramente esperienza sociale. Dove e come si può vedere il documentario? Allora, il documentario per il momento lo faremo girare per festival e concorsi, perché chiaramente il nostro obiettivo è farlo girare quanto più possibile, al termine del quale di questa fase appunto di... legate ai festival, sicuramente cercheremo un modo per collocarlo in qualche rete TV, quello è il nostro obiettivo, perché chiaramente con Life in Motion noi vogliamo veramente arrivare al grande pubblico, a tutti quelli che non hanno fatto Erasmus, non sanno magari che cosa vuol dire fare un'esperienza di questo tipo e raccontarla, quindi fargliela arrivare. Perfetto, esnitalia.org è il sito per avere tutte le informazioni e comunque le saprete anche attraverso la voce dell'altra Europa. Ciao Alessia, grazie, buona grazie Europa, mille, buona festa. Ciao ciao. One day long, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything. Ci facciamo accompagnare da Ben Harper verso Napoli, città della scienza. Questo è il luogo scelto per celebrare la festa dell'Europa con l'innovazione, con la tecnologia, con le start-up al centro. Cittadellascienza.it è il sito per conoscere l'intero programma delle giornate di festa sul come costruire e ricostruire questa Europa. Qual è l'Europa che vorresti? Qual è l'Europa che hai vissuto? Qual è l'Europa del successo? Queste le domande la cui risposta viene data anche attraverso storie virtuose di chi ce l'ha fatta o di chi ce la sta facendo, anche grazie all'Europa. Tra le tante storie proposte ne abbiamo scelta una. Diamo il benvenuto a Chiara Scarpitti. Ciao Chiara. Buongiorno a tutti, ciao. Ciao, allora, all'interno della Città della Scienza c'è un incubatore di impresa, tu sei una delle persone, credo, che abbia usufruito, esatto, di questo incubatore, nato anche grazie all'Europa. Cosa ti sei inventata? Il progetto con la Città della Scienza è durato circa un anno. Questo incubatore, alcuni tutor, tra cui Luisa Tricelli, un progetto di design sulla gioielleria contemporanea, però anche di prodotti proprio di design per la casa, quindi piccoli oggetti realizzati con tecnologie ibride tra loro, come una manifattura artigianale molto sul territorio, sui tessuti, siete, ma anche tecniche di sintetizzazione 3D e di taglio laser e taglio chimico su acciaio. Quindi sei una maker, sei una di queste artigiane 2.0, no? Che... diciamo di sì. No, beh, diciamo per una designer, ecco, una designer mi definirei. Ecco, ma le nuove tecnologie, tu che sei una designer, quindi sei un artista, fanno esplodere la tua creatività o comunque le nuove tecnologie limitano la creatività? È un po' una sfida, nel senso che le tecnologie sono un mezzo fantastico per poter esprimere delle cose anche molto... Tra le nuove tecnologie non c'è il cellulare, mi sa. Ringraziamo Chiara intanto, ricordiamo il sito che è cittadelascienza.it, lì potete ritrovare tutte le storie, ripeto, potete trovare l'intero programma di questa festa dell'Europa, oggi a Napoli, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. L'Altra Europa. Eccoci qua ancora in diretta con l'Altra Europa, la festa dell'Europa, raccontata attraverso le voci dei protagonisti. Stiamo facendo questo giro d'Italia, sono tantissimi gli eventi che piccoli paesi, grandi città hanno proposto. Noi abbiamo selezionato alcune delle mete più importanti, siamo stati a Lampedusa, siamo stati ad Expo, siamo stati a Napoli e vi abbiamo segnalato quello che sta accadendo a Venezia. Adesso torniamo a Firenze, perché Firenze comunque da diversi anni con il Festival dell'Europa diventa un po' il cuore di questa giornata. Questa notte è anche prevista la notte blu, che è la notte dedicata all'Europa, un programma ricchissimo davvero. Festivaldeuropa.eu è il sito per conoscere i tanti appuntamenti. Tra i tanti appuntamenti c'è anche una fortissima presenza di Erasmus e dell'agenzia Indire, perché la scuola c'è, la scuola è protagonista, la scuola in tutte le sue tante accezioni, che è la mobilità, che è l'educazione permanente, che è la scuola pensata per le esperienze di i twinning, per esempio i gemellaggi reali e virtuali tra gli istituti tra gli istituti e le medie superiori e inferiori. Di tutto questo, di ciò che sta accadendo, di questo fortissimo abbraccio Erasmus più Firenze uguale Europa, ce ne parla Sara Pagliai, coordinatrice dell'agenzia Erasmus Plus Indire. Ciao Sara, ben ritrovata. Buongiorno a tutti, buongiorno da Piazza Santa Maria Novella. Si sentono dietro di noi tanti rumori, che sono i rumori delle tante persone che sono accorse qui oggi a festeggiare con noi la festa dell'Europa, il compleanno dell'Europa. Ma c'era un flash mob anche nel programma, se non erro? Sì, si è formata una grande E, che è la E di Erasmus, e un più. Quindi Erasmus più, nice to meet you, è stato lo slogan del flash mob. Quindi Erasmus è l'Europa che incontra la cittadinanza, che poi è questo il senso dei nostri programmi europei: dare delle opportunità concrete, appunto, di cooperazione, di mobilità per formare dei veri cittadini europei. Il fulcro della vostra presenza è stato in Piazza Santa Maria Novella. Che Europa avete raccontato e state raccontando in queste giornate? Appunto, raccontando l'Europa dei cittadini, l'Europa della scuola, delle università, quindi dei giovani che hanno avuto l'opportunità, che stanno avendo l'opportunità di studiare, di fare un percorso formativo all'estero, ma anche appunto per tutti coloro, e qui abbiamo anche un punto informativo, che non hanno, che non sanno ancora come fare, come poter prendere parte a queste opportunità concrete che l'Europa offre, noi siamo qui per questo, per dare informazione e fare consulenza. E Sara, per la scuola non è un momento facile, un momento di trasformazione, un momento di dialogo e anche di scontro. In tutto questo l'Europa che cos'è? È un abbraccio, è un cuscino, è un'opportunità, è un ingombro? Devo dire che ormai da molti anni mi occupo di progetti europei e in particolare ho seguito il settore scuola oltre a quello dell'università, e sinceramente in tutti questi anni ho sempre creduto che chi nella scuola fa progetti europei in qualche modo dà una spinta innovativa, le scuole che si mettono in discussione attraverso il confronto con altre scuole di altri paesi, devo dire che sono diventati dei veri e propri laboratori innovativi su un modo nuovo di fare didattica, un nuovo modo di apprendere, ma anche un entusiasmo diverso per quei tanti insegnanti che hanno avuto la possibilità di formarsi, di fare formazione in servizio grazie ai progetti europei, e per quei tanti ragazzi che hanno capito, ad esempio, che studiare una lingua straniera non è un esercizio di stile così sterile, ma serve per comunicare con altri bambini, con altri ragazzi della stessa età, ma di culture e lingue diverse. Erasmusplus.it è il sito per tutte le informazioni. Sara, spero che la tua passione possa, anche solo se un briciolo della tua passione arriva ai ragazzi che sono lì con te, per l'Europa è fatta. Lo spero tanto. Oggi è la festa dell'Europa e siamo qui a festeggiarla in questa città, ma idealmente abbracciamo l'Italia e abbracciamo l'Europa intera. Ciao, grazie, buona festa. Ciao Sara. Grazie, ciao, grazie. Ciao. E noi chiudiamo facendo un'altra incursione ad Expo, e lo facciamo con Anita Alessandrini della classe 4A del Liceo Classico di Bra, che è risultata vincitrice del concorso indetto dal Movimento Federalista Europeo nelle diverse regioni europee, intitolato Diventiamo Cittadini Europei, e tra i premi c'era anche la partecipazione oggi a questa giornata ad Expo. Ciao Anita, benvenuta all'Altra Europa. Ciao. Com'è andata? Tutto bene? Sì, la conferenza è finita adesso con la Mogherini e Schulz. Abbiamo sentito prima, appunto, un nostro collega ci ha raccontato qualche battuta in diretta. Raccontaci però il tuo punto di vista. Com'è stata? Emozionante? È stato interessante perché sono quei personaggi che ti vengono descritti e soprattutto ne abbiamo parlato molto durante il seminario, per cui è stato interessante vedere la loro visione dal vivo e il fatto che fossero assolutamente preparati a qualsiasi domanda mi venisse posta. Questo ti ha rincuorato, insomma, ti ha dato l'idea di competenza, che è sicuramente un valore. E tu hai frequentato questa 24esima edizione del seminario di formazione alla cittadinanza europea di Bardonecchia, che si è tenuto ad aprile, organizzato dal Movimento Federalista Europeo. Che cos'è per te l'Europa? Diciamo che ho una visione dell'Europa che è piuttosto cambiata dopo il seminario, nel senso che può essere vista come una... sei unita, probabilmente più unita anche politicamente, come magari una potenza nei confronti di quello che può essere il terrorismo attuale o la guerra ai confini dell'Europa attuale. Sei unita indubbiamente una potenza, diciamo, anche a livello di valori, non solo politicamente. Quindi non solo un'unione politica, non solo un'unione economica, però poi ci sono i valori, la cultura, anche la creatività, che credo, come sempre, che sia uno dei punti di forza di questa nostra Unione Europea. Oggi eravate lì 1000 giovani, che energia c'era? C'era voglia di Europa, c'era titubanza, c'era distanza, c'era curiosità. Qual è secondo te il sentimento che ha prevalso? Al seminario? Sì, no, oggi a questo, al dialogo con Schulz e la Mogherini. Secondo me ho visto tanta curiosità nei confronti del futuro, nel senso che ho visto anche nei giovani che facevano diverse domande, soprattutto a Schulz, che appunto non essendo italiano incuriosisce probabilmente, ho visto una grande curiosità nei confronti di quello che è futuro più compatto, più unito fra le nazioni europee. Erano tutti molto interessati nel vedere la loro visione riguardo alla responsabilità europea nei confronti del resto del mondo. Mm-hmm. Quindi insomma domande rivolte al futuro, giustamente, visto che queste domande sono arrivate da voi giovani, che questo futuro avrete la fortuna, la possibilità di viverlo e di cambiarlo. Grazie Anita, complimenti per il tuo premio. Ricordiamo che la celebrazione sarà il 15 maggio a Torino, quando appunto ti verrà assegnato grazie al concorso che promosso dal Movimento Federalista Europeo. Ciao e buona giornata, buona festa dell'Europa. Ciao. E questa buona festa dell'Europa a tutti voi e da parte della squadra dell'Altra Europa, Claudia Schiattone con me oggi in assistenza, insieme a Filippo Aureggi che ha giocato con i tasti, Miriam Lucchetti e Silvia Righini invece con me hanno scritto la puntata. Tutto ciò lo potete ritrovare e riascoltare sul nostro sito, che è radio24.it. nelle pagine dell'Altra Europa potete trovare e ritrovare anche tutti i contenuti extra, oppure mi trovate sui social e il profilo è il mio personale, lo conoscete, è @FedericoTaddia. Ancora ciao, ancora buon sabato da me. Ciao!